Marco. Dimmi Giulio. Guarda che c'è Luca che sta vendendo 2 440 e un 757. Adesso le sto facendo anche pubblicità gratis. Non se lo merita di fargli pubblicità, ma comunque siccome io sono generoso te l'ho voluto dire. Se tu sei interessato sappi che lui ha questi 2 apparecchi che li sta vendendo. Ah, ok, no, io a quelli non sono interessato. Mai più un Kenwood varcherà questa soglia. Cos'è? Scottato chi ha il Kenwood? Kenwood, anch'io l'ho fatto fuori, per cui che problemi ci sono? No, non è il caso, guarda, non è il caso. Anche se devo dire che mi era sempre piaciuto, è la verità. Però adesso, oggi come oggi, visto considerato l'affollamento che c'è in questa frequenza, eccetera, e la passione che sta sempre scemando di più, anche per l'ascolto nelle altre bande, per cui me ne sono liberato e basta, e non ne voglio più sapere. Eia. Beh, scottato, oddio, scottato no, però ripeto, anche questo fatto che dovevi aspettare che c'era freddo, dava pochi watt, allora magari non usciva bene, dovevi aspettare che scaldasse per uscire bene, per ritornare a quei watt che tu gli avevi regolato a caldo. Che ne so, ogni tanto poteva strappare un po', se ti avvicinavi un po' al mic, col processore strappava, la dovevi tenere a una certa distanza, in cui non aveva, imperdonabile per me quello, lo squelch in AM, cosa che io, lo squelch qua è fisso, questo sembra un VHF, qua non senti, a parte quando parlate voi che sentono le voci vostre, qua quel REM non le senti. A me piace usarlo così, non voglio sentire alternate, lungi, fischi, frusci, o quello che fa i gargarismi con la propagazione, quello da straniero, no. Così, ora, l'unica cosa bella è che aveva i watt pronti di suo, cioè non avevi bisogno del 747, cioè avevi già 40 watt in AM buoni, anche 50 modulati e 100 in SSB, e poi lo smitter era impagabile, almeno potevi dare controlli un pochino più attinenti alla verità, ecco, un po' più veritieri i controlli di segnale. Per il resto però è difficile da imboscare in caso di controlli perché è molto più grande, eccetera. Sì, beh, premesso che per fare paragoni tra una radio e l'altra non è nemmeno il caso, perché lo sappiamo benissimo che la differenza è notevolissima, per cui tutto quello che hai detto è vero, in effetti è così. Però io personalmente non ho mai avuto velleità di potenza, eccetera, perché anche quando ce l'avevo molto spesso lo utilizzavo anche a 5 watt, si può immaginare. Quando mi allargavo un pochino arrivavo a 10, ma niente di più. Raramente sono riuscito a superare, eccetto qualche prova così, con una potenza un pochino superiore, ma generalmente usavo sempre il basso wattaggio. Tanto è vero, più di una volta mi hanno anche rimproverato che bisognava usarlo almeno con un tot di potenza, che a me non me ne fregava niente, magari anche dei suoi suggerimenti, perché io sono grande e consapevole delle mie capacità e usavo la potenza che mi interessava, però per educazione ascoltavo e basta. Poi chiaramente facevo di mia iniziativa, ci mancherebbe altro. E guai se un uomo non fosse così, allora sarei proprio un qua. Va bene, dai. Avanti, Natali, ci sei ancora? Ehi, però sto chiudendo, dai, sono già a mezzogiorno meno un quarto. Vi saluto tutti e ringrazio tutti quanti per le 4 chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime, dai. Non mi sento bene, no? Mi è tornato quel dolore maledetto. Dove? Alla gamba? No, dove mi hanno operato all'ernia dell'inguine, mi hanno, c'è un dolore da un po' di tempo a questa parte. notte sto andando a Porta di Bruffen. È allucinante. È brutto quando viene, mamma mia. Bruffen quanto? Quanto lo stai prendendo di dosaggio? La 400. E 600 anche natali, se sono parti basse, delicate, anche 600. L'800 invece ha rilascio lento, cioè ti copre tutta la giornata, però magari l'effetto immediato è meno forte. E mamma, per quella gamba lì, per quelle gambe messe così, deve usare Bruffen 600 se vuole camminare, e se no è impegnativo troppo, è un po' doloroso, capito? Ah, sono a pezzi, sono. Marco, va, non lo auguro neanche al peggior nemico. Ascolta, Natalì, facciamo una comitiva, andiamo tutti a Lourdes, così a me mi risolvono i problemi di schiena, me la raddrizzano anche un po', a te ti aggiustano tutto il resto, chissà che ci faccia la grazia. Dio ti senta, oh, yeah. Sono proprio messo male, da rottamare, non duro molto, no? Vedrai che non duro molto, perché così non si può vivere. No, Natalì, vabbè, adesso questo è un discorso pessimistico, ma nel caso a chi lasci le radio, dillo subito, così non ci azzuffiamo. Per me puoi venire anche adesso a pigliartele, ti do tutto, anche le armi, se ti fai il portadarmi ti do anche le armi, così mia moglie non ha problemi. Meno male che scherziamo su queste cose, Giulio, eh? Riprendi, Giulio. Ok, Marco. Beh, certo, bisogna anche scherzare, se no la vita diventa troppo monotona, per cui è meglio di tanto in tanto lasciarsi andare a qualche battuta, così almeno riusciamo a campare meglio. Vabbè, invece Luca, lui vuole che la gente parli al baracchino, però lui non parla. Dunque, non sarà il caso che lui possa fare anche la prima mossa qualche volta? Luca, questa è una battuta per te. Se vuoi sentire qualcuno che parla al baracchino, prova a parlare tu anche. Vedrai che la cosa si incrementa. E si sa, è una parola tira l'altra, la tua tira la mia tira la tua, e così via, e quella degli altri anche. Invece no, se stai in silenzio, gli ho promesso, oh Marco, siccome mi era sembrato che avesse perso una lingua, allora gli spedisco una lingua di maiale, così se la sostituisce, può darsi che le venga qualche favella in più da esprimere. Cosa dici, Marco? Luca è un uomo di classe, l'uomo di classe non parla mai, ha poche parole, capito? Di classe è scassata, però, di classe è scassata. Lui è superiore agli altri, capito? Lui si sente superiore. E intanto no, anche se tu lo stimoli e cerchi di provocarlo, non reagisce. Anche quello è un difetto, non un pregio. Luca, anche quello è un difetto. Fatti sentire. Anzi, quella è la sua forza, lui non risponde alle provocazioni, quello è un grande atto di forza, capito? Chiunque potrebbe rispondere alle provocazioni, eccetera. Lui è al di sopra, capito Giulio? Sì, ma qualche volta si deve immedesimare e fare qualche sforzo, non solamente quando va in bagno, ma anche quando ha il microfono in mano, così uno sforzo tira l'altro, Marco. Bisogna bilanciare la forza, un bilanciamento ci vuole, un po' da una parte e un po' dall'altra. Ecco, prima, vabbè, ho fatto la battuta a Natalino, a chi lascia le radio, però di solito quando muori con CB, o soprattutto un radioamatore, c'era tutta questa fila di persone che si premuravano di andare le condoglianze, di fare le condoglianze alla vedova. E poi magari se non attaccava a bottone la vedova parlando alle radio, dice, signore, cosa ne fa di attacco alle radio? Tutti pronti, e già con i sacchi di juta. Per carità, pazienza, per carità. Che mi ci pare che siamo. Generalizziamo, dai, senza offendere mai nessuno, chiaramente, ma diciamo che siamo messi un po' male tutti, dai. Più o meno. In senso buono, chiaramente, non in senso brutto. Vabbè, comunque, sia fatta la volontà di chi è cocciuto. Non posso dire altro, o Marco. Eia, piuttosto, che ore sono, Giulio? Aspetta, sono senza orologio, non c'è un orologio funzionante in questa stanza, e sono sdraiato. Che ore sono? No, perché mi metto un po' per l'orario, magari mangio un po' prima, pranzo prima, che poi dovrei scendere in campagna, e quasi quasi volevo portare il baracchino in macchina, anche a vedere se riesco a capire questa antenna lunga perché non sta andando, come se si fosse starata, eppure io non ho toccato nulla, i registri erano ben serrati, però poi magari rischio che lo metto in macchina, non vedo un'anima, e allora mi ascolto il QRM dalla bara mobile. Sono scoccate le 11:56 minuti, questa è l'ora esatta al meteorologo dell'orario, va benissimo, mezzogiorno meno 3 minuti e mezzo, meno 3 minuti e mezzo, dai, siamo lì, quello è l'orario, per cui ancora siamo un po' lontano dall'ora del pranzo, però noi siamo già con Natalino almeno un'ora, oltre un'ora al baracchino, per cui intanto c'è stato qualche piccolo così annuncio da parte di non dico QSO, ma annuncio così, qualche piccolo annuncio, vedi ad esempio il fatto che ha 2,44 da vendere o 7,57 eccetera eccetera. Io continuo a fargli pubblicità perché le voglio bene, capito? Voglio che lui rimanga contento dei suoi affari poi commerciali. Ma io avevo capito che aveva già venduto tutto, a meno che non siano apparati che li siano entrati nuovi o da rivendere, capito, da sistemare e rivendere, vabbè, quello lo sa lui. No, io che ho fatto l'esperienza, però dopo tutto non mi ha particolarmente entusiasmato, ecco. Proprio quella storia dello strappare, che si alzi appena appena strappa, all'inizio è freddo e allora non esce bene come dovrebbe uscire. E poi io non ho capito perché un apparato a transistor a freddo deve uscire più basso e più male, con meno watt e più male. Se è transistorizzato non è a valvole. Non ho mai capito io quello del 140. E solo il 140 lo faceva quello. Il 440 lo accendevi ed era pronto. Ma nessuno mi ha spiegato il perché. Cioè, è transistorizzato, allora il calore, perché a caldo funziona bene? E non stiamo parlando di stabilità in frequenza, stiamo parlando proprio di emissione di uscita. Cioè, che appena acceso magari usciva o più male di radio o strappato con pochi watt, quindi dovevi aspettare che scaldasse e raggiungesse anche quei watt che avevi preimpostato a caldo, che io di solito mettevo 20 watt portante mute e adesso modulati a caldo, me lo regolavo, capito? Sì, solo il 140, il 440 era diverso, era un giocattolo il 140. Sì, infatti il 440 io ce l'ho avuto e non ho questo problema, non ce l'aveva, oltre al fatto che era anche molto comodo il fatto che avesse l'accordatore entro contenuto, per cui era eccezionale. La modulazione poi non se ne parla, io ho sempre detto, per me almeno in questa banda il 440, o meglio il Kenwood, è il numero uno in assoluto, abbinato all'MC60. Poi il 140 ho sentito anch'io da tantissime altre persone, io ce l'ho avuto il 440, il 140 ce l'ho avuto un 35-40 anni fa, insomma, quando è uscito proprio al primo momento, che poi l'avevo dato a uno di Porto Torres, da l'avevo dato, che l'avevo scelto alle costole, che lo voleva lui comprare, gliel'avevo venduto. Tu pensa che io l'avevo comprato quando era appena uscito, perché c'era la buonanima di Tore alla Verde che era venuto da me un giorno, l'avevo appena ritirato, era passato da Betaverde, era passato lì a San Francesco e avevo fatto subito la modifica, l'avevo fatto. È entrato da me in bottega, ma guarda così così, appena modificato, me l'ha fatto vedere, mi è piaciuto e me lo sono ordinato. L'avevo pagato un sacco di soldi, è compreso anche l'alimentatore da 23 ampere. E poi l'ho dato a uno del Porto Torres, che tu costantemente veniva a rompermi le scatole, che lo voleva lui, e gliel'avevo venduto. L'avevo venduto naturalmente a un prezzo inferiore, ovvio, perché ormai era di seconda mano, però il 440 è di gran lunga superiore al 140, questo non ci discute, o Marco. Via. Di 4,40 se ne trovano anche molti, 4,30 invece adesso chi c'ha se lo tiene stretto, mi pare, perché il 4,30 non aveva quei problemi che aveva dato, mi pare, il 4,40, tipo quella storia dei puntini oppure del VFO, no, com'era? Uffa. Vabbè, adesso non voglio dire cavolate, quel problema noto che tutti hanno dovuto mandarlo da Bianconi o chissà da chi per forza mettere a posto, il 430 credo fosse esente da quella cosa lì, no? Sì, premesso che bisogna tenere in considerazione il fatto che noi ce l'abbiamo avuto, magari perché era già una radio usata, eccetera, eccetera, dunque, perché sono radio che ormai sono di oltre 35 anni di vita che hanno, quella è radio lì, per cui sì, è vero, il fatto dei puntini, il VCO doveva essere sempre pulito, eccetera, eccetera, perché rompeva le scatole dei puntini. A me mi era successo un paio di volte, altre addirittura tre volte l'avevo riparato, alla quarta volta l'ho preso e l'ho dato così guasto com'era, e se l'hanno riparato loro poi, non mi interessava più. Però devo dire che io l'ho tenuto per almeno forse vicino a 15 anni più o meno, non lo so di preciso, ma è stata sempre una grandissima radio, è stata veramente sempre una grandissima radio, Marco. Sì, ecco, il VCO, ecco quello che non mi veniva lì. Io avevo letto l'articolo, non so se su internet, o su una rivista, ma probabilmente internet, dice che questa specie di isolante o cosa c'era all'interno della radio, c'era un tipo di materiale, insomma, che dopo decenni degradava e diventava conduttivo e quindi ti mandava in tilt l'apparato. E lì bisognava, insomma, cambiare e togliere questa robaccia qui e per rimediare al problema, ecco. Un materiale, credo, sintetico, resina o cosa era, che diventava dopo decenni, come certe gomme che le trovi strane, appiccicose, che si rovinano dopo tanti anni, no? Si spolimerizzano, si degradano. E lì è successa una cosa del genere. Però vedi che il fatto che succede all'interno di un apparecchio elettronico è un macello, poi pare che diventasse come quasi conduttiva e quindi ti mandava quasi in corto tutto, cioè comunque destabilizzava l'uso della radio. E il Giappone all'epoca andava forte con quella roba lì. La Cina non produceva ancora, poca roba produceva la Cina in quegli anni là, agli albori della Kenwood, anni fine 70-80, poi il Giappone, diciamo, quasi passato in secondo piano per l'elettronica, ormai è fatto tutto in Cina, magari di qualità un po' più bassa. Perché i cinesi a noi rifilano le porcherie, però loro la roba buona con materiali di componenti di classe A ce l'hanno, capito? Sì, diciamo che quella specie di isolante o matrice, come lo vogliamo chiamare, era stato messo dalla fabbrica perché era stato costruito, era una radio costruita anche per metterla in macchina e dunque per evitare gli balzi di torsioni eccetera che si possono verificare in macchina, allora l'avevano protetto con questo mastice, la circuitazione eccetera, no? Però hai ragione tu, dopo un po' di tempo si degradava questo mastice e anziché essere isolante diventava conducivo, infatti, e allora bisognava toglierlo e sostituire magari anche quattro condensatori di quello stadio lì. Io la prima volta l'avevo mandato fuori in continente con la collaborazione dell'amico che mi aveva dato una mano ed era andato bene. Poi la seconda volta me l'ha fatto, per altre due volte me l'ha fatto Fabrizio qui a Sassari, ed è andato altrettanto bene, alla grande, veramente. Poi la quarta volta non l'ho più riparato e basta, non potevo stare sempre rompendomi le scatole con questa radio, con questo. L'avevo messo da parte, poi mi hanno fatto un'offerta e l'ho dato 200 euro senza che fosse funzionante e senza il microfono, infatti il microfono ce l'ho sempre, chiaramente, l'MC60, o Marco? Sì, ho capito. Sì, se lo fa una volta, due volte, cioè, alla fine non si stanca di campare per aggiustare la stessa radio tante volte. Beh, passano gli anni, adesso sono un po' datate. Certo, se sono state tenute, certi li hanno tenute male. Io avevo sentito anche di questi apparati lasciati in cucina dove tu friggevi o c'erano i vapori di quando butti la pasta e dentro fuori anche tutti unti, tutti, hai presente proprio la pattina che lascia la frittura, tutto appiccicoso, che dovevano essere puliti da capo. Mamma mia, no, così no, così una radio, la radio in cucina deve stare lontano da tutti i luoghi dove c'è acqua, dove c'è frittura, dove ci sono esalazioni del cucinato, ecco, capito? Sì, ma diciamo che la plastica, certi tipi di plastica si degradano nel tempo da soli anche senza utilizzarla. Non a caso proprio ieri, avanti ieri, anzi, stavo sistemando delle cuffiette auricolari che ho, quelle dei vari telefonini eccetera, che ho sempre avuto, e ne ho tanti, in tutto di telefoni ne ho 8 telefonini, più ne ho uno sempre a portata della mano, sono 9, più ne ho 2 che ho 2 tablet che anche quelli fanno da telefono, e praticamente ne ho in tutto ne ho 11, ma ormai ne ho quelli 8 che ti stavo dicendo, sono correlati sia del suo alimentatore, cioè del suo caricatore, poi anche della sua cuffietta, e proprio ieri che li stavo vedendo, me li ho sistemati dentro una scatola tutti insieme, perché prima ce l'avevo assieme a tanti fili elettronici eccetera, ho fatto la selezione e ho visto che c'era una di queste cuffiette, proprio il cavetto poi per appiccicoso, la plastica, e poi una cuffietta che io non ho mai utilizzato, tra l'altro, per dirti, si deteriora da sola la plastica, certi tipi di plastica perlomeno, Marco. È vero, è vero. Ora ti dirò due casi. L'altro giorno io ho questi Intec MT5050, ne ho una coppia, no? Erano i PMR di spicco della Intec, erano i più completi, con più opzioni, volendo modificabili con tante cose nascoste, tipo una marea di canali in più, lo scrambler, la potenza alta, eccetera. Beh, dopo, se sono passati tanti anni da quando ce li ho, sono ancora nuovi praticamente, però l'antenna sua l'ho trovata come un po' che trasudavami, un po' come umida, quindi vuol dire che quel tipo di plastica sta cominciando un po' a perdere colpi, e l'ho trovata come sì che trasudasse un qualcosa. Niente di strano che poi la plastica poi diventerà rigida, ecco, unta era, sembrava come leggermente unta, pur non avendo toccato nulla. E lì capace magari che poi potrebbe diventare più secca e poi cui si rompe il cera sottopugna a piegamento, si potrebbe rompere tipo pane in carasau, è una cosa che ho già visto in certe plastiche. Beh, speriamo di no. E poi sull'altro, invece su un Brondi, un PMR Brondi, vabbè, che Natalino conosce, la gommatura, la parte in gomma, con una finitura bella antiscivolo, ha cominciato a diventare appiccicosa, tant'è che era fastidioso anche tenerla in mano la radio. Però lì credo che abbia influito una lampada a petrolio bianco che comunque esalava dei vapori, anche se io se la tenevo chiusa in un armadio, in un piccolo mobiletto tipo maggiolino, mi pare che si chiami, no? Ed era tutta da una parte, chiusa in uno sportello, e dall'altra parte c'erano queste radio. Siccome bene o male ogni tanto, anche se debole sentivi un po' di aroma di petrolio bianco di quella lampada lì, quelle tipo antico, no? Quelle lampade di una volta, possa aver influito questi vapori del petrolio a intaccare la gomma di questo portatile, capito? È una mia teoria, perché ad altri non gliel'ha fatto. Lì in quel caso è stato, quindi certe volte proprio certi materiali li devi tenere lontani da gomma, solventi, anche se sembrano ben chiusi, li devi tenere lontano da tutte le altre cose, dalle materie plastiche, perché può succedere quello che è successo a me con questi Brondi qua. Sì, no, non è una tua teoria, o Marco, in effetti è così. Se vengono, diciamo così, investiti da certe cose che possono sciogliere dalla plastica, tu lo sai benissimo, la plastica è praticamente un prodotto creato dal petrolio, eccetera, e dunque un fattorioso, come stavi illustrando tu in qualche maniera, come fritti, eccetera, eccetera, quelli sono micidiali per certi tipi di plastica, non ci sono dubbi, è vero, è così. E allora diciamo che vanno a deteriorare quel tipo di cose che tu stavi elencando, ma è così, è normalissimo. Del resto sono, tu prendi ad esempio un pezzo di carta adesiva che la lasci per un bel po' di tempo attaccata a un qualsiasi cosa così, oppure il nastro isolante che si secca, e poi la colla diventa secca ed è un po' difficile da togliere. Basta che tu prendi un pezzetto di cotone o qualcosa del genere, imbevuto appena appena di olio, ma qualsiasi tipo di olio, no, certamente olio extravergine, perché sarebbe uno spreco. Lo passi con quello in un attimo, proprio in un istante ti scioglie la gomma, perché è un derivato esattamente dallo stesso materiale che tu vai a pulire, cioè il prodotto che usi per pulire non è altro che il derivato sarebbe la plastica che è da quel prodotto che stai usando per pulire, Marco. Sì, esatto. Quindi pensa, nonostante fossero in scomparti separati e nonostante la lampada a petrolio fosse ben chiusa, no? Però tu, come aprivi lo sportello dove c'è la lampada, tu avvertivi un leggero odore di petrolio bianco, quindi vuol dire che a livello molecolare qualcosa sta uscendo, qualche vapore del petrolio sta uscendo ed è riuscito anche in uno scomparto secondario dove c'erano le radio a passare lì e sciupare quella plastica, quella gommatura lì dei Brondi PMR. E bisogna tenere proprio agli antipodi, possibilmente da una stanza all'altra, queste cose qua petrolifere, che potrebbero influire, sì. E vabbè. Scusa un attimo Marco, un minuto, vengo subito. Deia. Sono tornato Marco. Sì, sono tornato Marco. Io ne ho approfittato per andare in bagno. Scommetto che anche tu. Ti ho contagiato evidentemente. Non so. Io sto sempre bevendo acqua. E quindi io vado in bagno molto spesso e molto volentieri. Ok, dai. Va bene. E quindi dicevamo di tenere i solventi o anche candele, paraffine, certe cose possono influire, tutti i prodotti petroliferi che magari esalano anche appena appena un po' di tipo odori, vapori, roba del genere, tutto lontano dalle plastiche, c'è poco da fare. Sì, perché sono tutte sostanze oleose che appunto appiccicandosi a ridosso di certi prodotti plastificati o di plastica creano quella reazione lì sull'oggetto. Sì, ma è vero, e questo vale anche per il fritto, perché noi quando per dire in cucina uno fa del fritto, l'evaporazione dell'oleosa c'è in aria, perché c'è, poi tu mi dai, va, apri le finestre e scompare, va fuori, certo, ma intanto l'evaporazione c'è, e se cade a ridosso di certi prodotti che sono nocivi per quanto riguarda l'applicazione di fatti oleosi, ecco che succede con il deterioramento alla plastica appunto di cui stavamo parlando. Sì, poi dipende che tipo di plastica è, che tipo di gomma è, poi i deterioramenti possono essere anche spontanei, perché adesso certe cose ce l'hai da talmente tanto tempo, 20 anni, 30 anni, che poi, soprattutto per i prodotti economici, avevo un LPD, avevo un portatile LPD, uno dei primi, solo LPD, solo 10 mW, era proprio puro, LPD puro. Quelli li vendevano in Viale Italia roba di 290 euro, uno, un giocattolo, 290 euro. E io li avevo trovati a Portobello, nuovi, e probabilmente il negozio aveva fallito, aveva chiuso, a quei prezzi. E a 10 euro l'uno, ne avevo preso uno perché l'altro l'avevano comprato il giorno prima, erano due confezioni intere. Insomma, questa è lo stesso gommina di questo apparatino dell'impugnatura, si è lo stesso, è diventata tutta ciò appiccicosa. Io allora per non sentire questa cosa appiccicosa ci mettevo del borotalco come per asciugarla, almeno riuscivi a tenerla in mano senza questo effetto cingomma, capito? Questo effetto cingomma che ti faceva. Però lì non hanno intervenuto fattori esterni, solventi, no, lì era per vetustà, perché era uno dei primi LPD mai immessi sul mercato, e li vendevano a prezzi folli, cioè mi pare che c'erano ancora le lire, il prezzo era in lire, 290.000 lire, un giocattolo ridicolo che fa da qui a 100 metri, giri l'angolo e stai perdendo già il segnale, capito? Sì, l'ho conosciuto anche il proprietario, anzi addirittura era un mio amico quello lì, perché abbiamo lavorato insieme, abbiamo iniziato l'attività appunto da allora, quando ero ragazzo, da elettricista eccetera, proprio insieme a quello nello stesso negozio, per lui, poi per anni insieme, e poi quando ha chiuso la ditta dove si lavorava, lui è andato a lavorare non so dove, e poi successivamente si aveva aperto il negozio lì in Viale Italia, stai parlando di Tonino, sì, infatti era così, lui vendeva queste apparecchiature eccetera, era un tipo abbastanza caro come prezzi, però il commerciante è così, ognuno di loro fa il prezzo, poi sa al cliente se acquistare o meno, se non ti va il prezzo non lo acquisti e basta. Però è risaputo che Tonino come prezzi era abbastanza altino, vabbè, comunque. Io per dire ho un caricabatteria ausiliare che si può utilizzare sia nel tablet o nel telefonino per quando ci si consuma la batteria, no? È un pacco batterie ed è appunto rivestito da questo materiale così di gomma. Tempo fa l'ho tolto fuori, tieni presente che era sempre conservato dentro il cassetto. Tornando al discorso che hai detto tu, che si deteriora ugualmente anche senza nessuna cosa che gli vada addosso, e come l'ho preso in mano era appiccicoso, poi naturalmente l'ho lavato, l'ho pulito insomma come si deve e adesso non appiccica più, però intanto si era creata quella patina su questa plastica appiccicosa, proprio la classica plastica appunto difettosa, perché per me è una plastica difettosa quello che fa questo difetto qua. Sì, infatti se lo fa in poco tempo è proprio un difetto, cioè hanno sbagliato la mescola, quello che è, o comunque il materiale scadente, sì. Per caso sono quella finitura simile velluto, è come una gomma che passa nel dito, sembra velluto. Sì, inizialmente era così, ma poi con l'andare del tempo si era appunto diventato appiccicoso, adesso invece è liscio normale, ha perso quel senso di velluto, lo ha perso perché l'abbiamo pulito, perché se no rimaneva appiccicoso. Sì, sì, sì, guarda, ne ho uno io di power bank, preso da poco, da 20 ampere, 20.000 mAh, vabbè lo esprimo in mAh, ma sempre a 20 ampere sono, se sono reali, e c'ha quella finitura lì, ed è anche molto delicata ai graffi, perché io l'ho tratto in modo rude, non è che ce l'ho come soprammobile, io se lo devo sbattere in macchina, nel cassetto, lo lancio nel cassetto, lo poggio dove capita, capito, è una cosa di consumo, è una batteria praticamente. E per quanto sia al tatto piacevole quel tipo di finitura, tende a graffiarsi, però a me che si graffi, l'importante è che funzioni bene, e funziona bene insomma. 20 ampere poi è abbastanza pesante e impegnativo, diciamo, dai, per esempio in una tasca di una giacca già è una rottura portarselo. Quello da 10 ampere è più piccoletto, pesa la metà, quello è più vivibile per le tasche. Bene Giulio, io adesso stacco, mi sa che comincio a mangiare qualcosa, poi a una certa ora provo ad andare in campagna, oggi è una bella giornata, dovevamo fare alcune cosette, boh, vediamo, devo ancora decidere però. Così come devo decidere se metterci il baracchino o no in macchina, ma essendo il primo pomeriggio che vado, dubito che troverò qualcuno in radio, dubito fortemente, e allora mi sa che me ne frego. Vediamo. Ok, d'accordo Marco, dai, allora ci sentiamo un altro momento, speriamo presto. Vai, vabbè, la prossima settimana è Pasqua, dunque magari ci possiamo sentire tramite WhatsApp, eccetera. Alle prossime, grazie allora per la chiacchierata, Marco. Sì, anch'io dubito che allora il pranzo ci possa essere, o perlomeno subito dopo pranzo, ci possa essere qualcuno al baracchino, visto che la frequentazione ormai è molto scarsa in questa frequenza. Ringrazio per questo, buon pranzo appena che lo fai e dopo ci sentiamo eventualmente appena capita. Ciao Marco, salutami, addio, alle prossime, ciao, ascolto fino a lì e chiudo. Ehi Giulio, dai, ci sentiamo quando capita, anch'io ho una frequentazione saltuaria del baracchino ormai. Guarda, giusto l'altro giorno, che giorno poteva essere, 2 giorni fa, di mattina ho provato a metterlo in macchina, più che altro per vedere anche se l'antenna era funzionante, e ho trovato che c'era bombolo, anzi no, prima non c'era nessuno, poi ho premuto il beep più volte, come per fare chiamata, ed è uscito a Pizzu Natalino, e poi è entrato bombolo, così insomma abbiamo fatto 10 minuti, un quarto d'ora di così chiacchierata, ma così staziandomi a dire cose così per ridere. c'è la mamma anche in macchina, l'ho fatta entrare a salutare, certo c'ha un po' la vocina da vecchierella, ormai 81 sono, la vocina vecchierella, però così l'ho fatta affacciare, così ha salutato Natalino e Antonio, capito? Ok Marco, sì, lei è 81 e io sono più grande, io a fine mese di aprile, o quasi a fine mese, 29, che ne compio 82, per cui sono anche più grande di tua madre, o Marco. Vabbè, interessante avere sempre buona salute, poi per il resto gli anni si sa che passano. Ciao Marco, salutoli ancora e saluti anche a Giulio. Ciao, ciao. Ciao Giulio, ciao anche a Natalino se è ancora all'ascolto, ciao a tutti, ciao. E a Luca Flipper che ha l'ascolto sicuramente ma non vuole entrare perché sta creando. Ciao a tutti, ciao. Ok, ciao Marco, ciao. Sì, anch'io saluto a Natalino se ha l'ascolto, probabilmente sì, magari in cucina, perché aveva annunciato che doveva fare pranzo. E a Luca, per quanto riguarda Luca, al limite se lo sta ascoltando le posso regalare un trappolo, o le servi là. Le servi là per le orecchie. Cosa vuoi dire? Ciao Luca. Ciao Marco di nuovo, ciao. Ciao, ciao. Giulio, buona domenica delle palme, Natalino in cucina. Ciao. Ok, ciao Cosè. Salutoni anche a te allora, dai. Sì, infatti me l'aveva annunciato che doveva cucinare o qualcosa del genere, per cui l'ho immaginato. D'accordo, ciao Cosè, alle prossime, ciao. Salutamelo tu a Natalino. Ciao Giulio. Ok, lo saluto io da parte tua. Ciao. Ok, ciao Tonino. Ciao anche a te Giulio, ciao Concetta e ciao Marcolino. Io non ascolto ma stavo facendo cosa a fare. Se la potevo rispondere, adesso mi sono liberato. Ciao Turì, non ti avevo riconosciuto, come hai detto ciao, con la tonalità bassa ti avevo scambiato per Antonio Bombolo. Tutti di buona forchetta, dai. Ci sentiamo al prossimo, se coincide stasera eventualmente. Ciao Turì. Allora Natalino ricambia, ciao Antonino e tutti quelli che sono in ascolto. Un bel discorso con la tonalazione. Ui. Ciao Marcolino, anche a te comunque. Di nuovo va bene, dai, ciao a tutti, buon proseguo, buon caricabatteria, buon tutto. Stasera è accetto, che c'è ci facciamo questo, se no pazienza, ok? Mi coincide, senz'altro con piacere facciamo questo stasera. Ciao Tonino, Marco, Natalino, Luca e Concetta, alle prossime ci sentiamo, chiudo. Cappa, anch'io confermo, buon pranzo a tutti e buona domenica delle palme. Sì, c'è buon palmiro, ok.